Va bene, ma il vostro momento verrà, il vostro momento verrà, perché prima di tutto in realtà abbiamo un nuovo ospite. Benvenuto, benvenuto, sentiamo la voce. Ciao. Ciao, ben arrivato. Abbiamo oggi, grazie, ospite Andrea Simoncini di Contrabbandiera Editrice. Sì, sì, sì. Oggi abbiamo voluto continuare la nostra domenica culturale. Siamo sull'editoriale e oggi abbiamo presentato nel pomeriggio il podcast. Si potrà trovare da stasera su PoiUIT, sulla sezione PoiUIT all'interno di podcast sul sito di Radio Wombat. Abbiamo presentato la nuova antologia poetica di Affluenti con molte voci di autrici ed autori da Firenze e dintorni. Rimaniamo anche a Firenze con la letteratura perché siamo assieme appunto a Contrabbandiera Editrice, una giovane casa editrice fondata da poco, vero? Sì, e che a differenza del professor Probo e del maestro Ottani lavora, lavoro io insieme a mio socio e collega Marco Tangocci e Federico Ricci abbiamo da quest'anno inaugurato questa casa editrice, Contrabbandiera Editrice, che non è solo una casa editrice, è anche un progetto editoriale che comprende da sfogo alla volontà di promuovere l'autoeditoria, perché è importante riappropriarsi dei mezzi per diffondere la cultura, per diffondere il sapere, per condividere le competenze e i saperi che abbiamo, che ognuno di noi ha e che è giusto riversare nel mondo per renderlo un po' migliore. E noi di tutto questo vogliamo parlare oggi, ma anche del primo libro che verrà pubblicato quest'anno da Contrabbandiera. Ne parleremo fra pochissimo. Prima di tutto io però vorrei un attimo ancora qua il professor Probo per ricordarci come sempre i contatti, vai! Perfetto, allora i contatti possono essere carattere visivo, fisico, sensitivo, perché sì, esistono anche, sono spesso romantici, a volte, prego. Primo tipo. Primo tipo. Primo tipo. Ed eccoci di nuovo in diretta sulle frequenze 13.59 AM. Siamo con Andrea Simoncini. Ciao. Di Contrabbandiera Editrice. Ciao Andrea. Allora, innanzitutto io direi di partire dall'inizio, cioè cos'è Contrabbandiera Editrice? Allora, Contrabbandiera Editrice, come dicevo prima, è un progetto editoriale nato quest'anno da un gruppo di sconclusionati come noi che sono partiti con l'intenzione di promuovere l'autoeditoria, ovvero di rendere a disposizione di chiunque lo voglia le competenze, le possibilità di autopubblicarsi, perché al giorno d'oggi gli strumenti sono alla portata di tutti e questa è un'ottima cosa nell'ottica di diffondere il più possibile idee alternative, radicali che la stampa mainstream non fa circolare per ovvi motivi perché non rendono, perché non sono molto non piacciono molto al mercato, mentre c'è un sacco di persone, di realtà, di percorsi che necessitano di uscire, di farti sentire e c'è bisogno più che mai oggi di proporre alternative e di informare e rendere coscienti le persone del mondo in cui vivono e di riappropriarsi degli strumenti e della possibilità di scegliere riguardo alle proprie vite, ai propri percorsi. E questa è la prima cosa da cui ci siamo partiti, perché ci riguarda in prima persona. Abbiamo dato voce a alcuni progetti prima ancora di aprire la casa editrice che ci sembravano importanti, e cito a titolo d'esempio Mahatma, Storia di un Intoccabile, che riporta la storia di la controstoria di quello che ci hanno raccontato di Gandhi e della figura invece di Ambedkar, quello che possiamo dire l'autore della Costituzione dell'India odierna, e quindi era importante far uscire questa storia, anche se autonomamente, a prescindere dagli interessi delle grandi case editrici. Un'altra cosa molto importante è stata la seconda autopubblicazione di Marco Tangocci e Davide Di Fabrizio, ovvero la guida Firenze No Cost, una guida alternativa a Firenze, alla città di Firenze, che cerca di smontare un po' la narrazione iperturistica, di riformulare i percorsi cittadini non in base a ciò che fa più profitto, ciò che fa più guadagno, ciò che fa più pubblicità, ma in base a ciò che è più di ha più valore, anche se è gratuito, perché la maggior parte delle guide a disposizione dei visitatori segnalano soltanto ciò che in qualche modo può far profitto, può rendere profitto a chi ne è coinvolto, a chi le pubblica. E invece no, c'è tanta arte, tanta cultura, tante anche esercizi commerciali che sono portatori di una. Sono sani, sono veraci, sono autentici, virtuosi, e quindi meritano di avere uno spazio, meritano di essere conosciuti e diffusi, e quindi questo Firenze No Cost. E fra ciò che è uscito, però, vedo io sulle vostre pagine social e anche sul sito contrabbandiera.it c'è anche un fumetto. Sì, il primo fumetto che abbiamo pubblicato, una breve graphic novel, chiamiamola, che è Gender Blast. È un progetto, è il primo numero di questo progetto, inaugurato da due disegnatrici giovanissime, Nicole e Michelle Muratori, e dalla loro zia Maria Micaela Coppola, che mira appunto a distruggere tutti i pregiudizi di fronte alle questioni di genere, e quindi presenta questa crew di supereroi che intervengono laddove dove sorgono delle questioni, dei conflitti di genere, dove ci sono pregiudizi, dove ci sono le storture che il nostro mondo normato ci propina continuamente. Ed era importante farlo uscire, l'abbiamo presentato a fine dello scorso anno a un bel convegno a Trento, che trattava proprio questioni di genere. È stato un bel successo, e questo ci ha confermato nei nostri intenti, e appunto ci ha dato la forza e la convinzione di portare avanti e rendere questo progetto editoriale una vera e propria casa editrice. Allora, questi sono alcuni dei progetti già seguiti e già pubblicati a vario modo per il tramite di Contrabbandiera, ma fanno tutti riferimento all'anno passato, mentre nel 2020 invece ci sono, mi dicevi, in programma diverse uscite, diverse pubblicazioni. Sì, abbiamo in cantiere ben quattro pubblicazioni, tutte a carattere militante, ovvero che hanno l'intento di portare avanti delle idee, e sono, come dire, sono quattro libri che nascono e crescono negli ambienti di lotta, di movimento, e mantengono questo carattere. Così tanto ve li cito. Sì, dai. Uno molto importante, che uscirà appena dopo l'estate, sarà la guida all'autodifesa digitale, che è un'opera prodotta da un collettivo francese che stiamo traducendo, e che sembra essenziale oggi più che mai rendere a conoscenza del pubblico, perché siamo oppressi dalla tecnologia che non sappiamo che ci controlla e invece dovremmo controllare. Un altro libro molto importante è il diario di Orso, il ragazzo di Rifredi che è andato a combattere in Kurdistan e dove è caduto combattendo a fianco delle unità di protezione del popolo curde per portare avanti appunto la rivoluzione, gli ideali di ecologia, femminismo e democrazia, il confederalismo democratico teorizzato da Öcalan. Un'altra cosa importante che stiamo per pubblicare è il nuovo numero della fanzine Ruggine, che è un progetto di... è una fanzine che esiste da una quindicina di anni pubblica racconti e illustrazioni di autori prevalentemente anonimi, ma che è importante sostenere perché appunto in questo soprattutto nel mondo dell'attivismo si consuma tanta saggistica, si legge tanta teoria però si finisce per restare chiusi in un intellettualismo che ci impedisce di vedere la vita per com'è e di incontrare altre persone. E invece il progetto di Ruggine mira proprio a dare spazio alla narrativa, cioè a una scrittura che sappia immaginare presenti alternativi, che sappia prospettare orizzonti nuovi o che semplicemente possa dare spago alla fantasia, all'immaginazione di chi questo mondo, oltre a immaginarlo diverso, prova anche effettivamente a modificarlo, a migliorarlo per il bene di chiunque. Questi sono alcuni delle prossime pubblicazioni, mi accennavi anche di altre, però io, se sei d'accordo, farei a meno di dirle ora, perché tanto avremo sicuramente occasione di rinvitarti di nuovo dopo l'estate, in autunno, per parlare di quello che invece dall'autunno in poi hai in programma di pubblicare Contrabbandiera. Però ce ne dette tre, la quarta invece vuole essere anche un po' il cuore di questa intervista di oggi. Sì, ed è anche quella a cui teniamo maggiormente in questo momento, anche solo perché è quella la prima che uscirà, sarà già fuori questo luglio, e si tratta appunto, dicevi prima, di Miti e Molotov, di Margaret Killjoy. Miti e Molotov si tratta di... Il sottotitolo è Scrittori di narrativa anarchici, interviste a scrittori di narrativa anarchici. Due parole sull'autrice. Sì. Margaret Killjoy è un'attrice statunitense, è una attivista punk trans, che è fondatrice dello steampunk magazine, che nel decennio scorso, che due decenni fa ha dato a questo movimento letterario dello steampunk, che ha avuto una grossa risonanza internazionale. Non solo, dopo di ciò ha pubblicato molte cose. Qua in Italia è arrivato soltanto la guida steampunk all'apocalisse, edita da Agenzia X, un libretto molto divertente che insegna che dà dei suggerimenti per come sopravvivere ad una imminente apocalisse. È un libro di una quindicina di anni fa e oggi sembra abbastanza attuale. Infatti, se posso, proprio all'inizio del periodo pandemico, quando iniziavano le nostre dirette speciali, c'è stata Pink che ha fatto una trasmissione sulla letteratura apocalittica e post-apocalittica e ha citato anche appunto questo libro edito dall'Agenzia X di Margaret Killjoy, che Agenzia X proprio nel periodo pandemico ha reso disponibile per intero in free download, lo si può scaricare in PDF per intero tuttora dal sito appunto di Agenzia X. Ecco, sì, no, scusa di... No, poi oltre a questo ha pubblicato anche numerosi altri libri, in particolare sono i due ultimi romanzi della serie di... oddio, mi sono perso. Sono The Lamb Will Slaughter the Lion e The Barrow Will Send What It May. E per chi è bravissimo con l'inglese come me, vuol dire? Ah, non lo so, quando acquisteremo i diritti anche di questi li tradurremo, vi faremo sapere qual è la traduzione adeguata. Però per riprendere proprio il discorso che gli autori, che dicevo sia per quanto riguarda Ruggine, ma che è anche centrale per questo Miti e Molotov, per cui gli anarchici scrivono anche narrativa, non solo teoria, non solo saggistica, ma scrivono anche narrativa, e spesso è in questi romanzi, in questi racconti, che si riscontrano quegli immaginari, quegli orizzonti sociali che poi si provano a mettere ad attuare nella realtà. Allora, io vorrei anche entrare un po' nel vivo di tutto questo, ma prima di farlo io farei un attimo un brevissimo stacco musicale, così poi torniamo a parlare appunto di questi miti e queste simboliche o meno Molotov di cui parla il libro. Nel frattempo c'è chi ci scrive belli come il sole, c'è chi ci scrive viva contrabbandiera, beccati anche questo dai, viva fra i nostri ascoltatori. Comprate i nostri libri. Sì, però allora torniamo sì fra pochissimo, direi di mettere una canzone, ricordando quindi che intanto Contrabbandiera Editrice ha l'indirizzo internet contrabbandiera.it, su Facebook e su Instagram si trova come Contrabbandiera Editrice. Beh, un approccio sicuramente contrabbandiero sia nei temi, come si sente, sia nei metodi, come ci dicevi all'inizio. Infatti ho fatto caso che sul vostro sito in corso di aggiornamento c'è anche la libera guida all'autoeditoria, che insegna a chiunque voglia come far sì che uno scritto possa diventare un libro fisico, cartaceo, avuto in mano senza pagare presunti editori o chi che sia. Però di questo io direi che, se siete d'accordo, ne parliamo alla fine. Intanto stacco musicale e torniamo su. Sì, però intanto il maestro. Dopo. Wombat. Grande perla, dopo. Aspetta, c'è il maestro. Dopo anche te. Prego, ma... Sì, maestro, prego. Da guida steampunk all'apocalisse di Margaret Killjoy. Case sugli alberi. Qualcuno potrà trovarsi costretto a costruirsi una casa sugli alberi per molte buone ragioni. La segretezza, la protezione dagli insetti che volano basso come le zanzare o i comunisti, aggiungo io. La minimizzazione dell'impatto sul terreno e sulla fauna è una gradevole esperienza estetica, più unica che rara. Sono solo le prime quattro che ci vengono in mente. Nel proteggere la vostra dimora, non mancate di considerare le implicazioni della permacultura e le esigenze difensive. Allora, questo era preso da Guida Steampunk all'Apocalisse, giusto? Giusto. Hai cambiato il microfono. Bentornato Andrea Simoncini, contrabbandiera editrice. Parlavamo appunto di Margaret Killjoy. Puoi chiamarmi Andrea comunque, diamoci del tu. Sì, diamoci pure del tu, sentiamoci liberi. Dai, sì. Allora, siamo rimasti sui temi e gli autori di Miti e Molotov, Margaret Killjoy, di prossima pubblicazione in italiano per contrabbandiera editrice. Chi sono, Andrea, un po' gli autori coinvolti, intervistati da Margaret all'interno di questo volume? Quali i temi ricorrenti? Allora, che domanda difficile. Allora, diciamo da cosa parte questo libro. Il libro nasce al momento in cui Margaret, che è appunto autrice dello Steampunk Magazine, che oggi non esiste più, è chiuso, però scrive ancora il blog Birds Before the Storm, trovate numerose cose. E, Margaret si trova a domandarsi chi altri scrive narrativa negli ambienti anarchici che lei frequenta, e girovagando per alcune fiere del libro auto-organizzate, trova che ben pochi autori, autrici si dedicano alla narrativa, e quindi inizia da qui la sua ricerca di personalità che invece hanno pubblicato narrativa in generale, non soltanto opere di letteratura, ma anche graphic novel, anche sceneggiature per videogiochi, come si dice? Chiediamo al maestro. Soggetti? Sceneggiature per videogiochi, io penso che siano allo stesso modo sceneggiature. Dai. Sceneggiature, sono sempre sceneggiature. Grazie maestro. E quindi la sua ricerca la mette in contatto da subito con quella che è considerata una delle maggiori autrici di letteratura di fantascienza, science fiction, che è Ursula Le Guin, che appunto è riconosciuta dal movimento anarchico come una delle autrici più affini, soprattutto per il suo romanzo I reietti dell'altro pianeta, che presenta appunto una società anarchica che si è sviluppata su un pianeta gemello di un altro pianeta in cui invece il capitalismo ha pervaso e domina incontrastato, un pianeta che può somigliare benissimo alla Terra, un pianeta dove le diseguaglianze fra ricchi e poveri sono enormi, dove le ingiustizie sociali sono affiancate da invece enormi privilegi. E quindi da questo dialogo con Ursula Le Guin, Margaret si rende conto che ci sono in realtà numerosi, non pochi, autori sia contemporanei che nella storia della letteratura che si sono definiti anarchici o che hanno scritto e descritto utopie o società che organizzate con modelli anarchici di democrazia diretta, di autonomia e quant'altro. E quindi appunto la sua ricerca prosegue e incontra numerosi autori. In questo libro ne sono entrate 13 interviste, nel libro è incluso anche un'interessantissima raccolta di biografie di autori e autrici che hanno appunto scritto in qualche modo di temi anarchici, di personaggi anarchici, di società organizzate in modo anarchico. E, i nomi sono i nomi inclusi in questa lista vanno davvero da personaggi sconosciuti a noi, ad autori rinomati ma che non sono considerati di per sé anarchici, come Tolstoi, come Tolkien, come Wu Ming. Poi nel particolare le interviste qui raccolte ci fanno conoscere vari autori che mi cito un po' così a volo d'angelo: Jim Munro, Rick Dakan, Star Hawk, un'autrice francese, Carissa Vandenberg Clark. Nomi che alcuni sono sconosciuti o conosciuti soltanto in giri ristretti, che speriamo di allargare pubblicando questo libro per il pubblico italiano. Altri sono veramente noti, come appunto Ursula Le Guin o Alan Moore, ad esempio, che è uno dei migliori autori di graphic novel del nostro secolo. E mi riferisco a opere come Watchmen, come V per Vendetta, La leggenda degli Straordinary Gentlemen, che poi sono stati tutti, ma la maggior parte addirittura, sono stati tradotti in film per grande dispiacere di Alan Moore, che non ha approvato nessuna delle rese hollywoodiane dei suoi lavori, che invece sono estremamente intensi, estremamente critici del mondo capitalista, che invece li ha poi sussunti per farci il busto. Da tutte queste interviste emergono varie cose. Un tratto comune di questi autori è appunto la volontà di raccontare, di descrivere delle possibilità che vengono negate dalla realtà in cui viviamo, dal sistema di produzione che ci opprime, ma che sono praticabili e sono praticabili dal momento in cui sono immaginabili, e quindi da qui l'importanza di scrivere e far conoscere queste prospettive in un modo che sia appunto non teorico, saggistico di fatto freddo, ma in un modo narrativo, cioè che riesca ad esplorare effettivamente anche le contraddizioni, perché non ci sono in realtà soluzioni preconfezionate, però la possibilità di sperimentare modi alternativi di organizzarsi in società, società egualitarie, basate sulla solidarietà, sul mutuo appoggio, su un valore dato all'essere umano e all'ambiente in cui vive, e che rifiuta lo sfruttamento reciproco, che rifiuta la discriminazione, il pregiudizio, e quindi si parla a partire da personaggi non standardizzati. Siamo abituati a vederci dai libri, al cinema, l'eroe bello e caucasico, a vedere la donna rappresentata secondo stereotipi sessisti, il poliziotto che deve salvare l'umanità dal cattivo che vuole il caos, tutte queste narrazioni standardizzate che riproducono la norma vigente solo per un facile appagamento di un pubblico distratto, ecco, è molto importante. Noi di Contrabbandiera riteniamo sia veramente essenziale smontare la narrazione normativa che c'ha in mezzo a cui siamo cresciuti. Oltre a questo, vorrei domandarti una cosa su quello che dicevi prima. Quindi, oltre a smontare questo tipo di narrazione standardizzata e normativa a cui siamo effettivamente avvezzi, mi sembra di capire che questi scrittori e scrittrici, che sono contemporanei comunque, giusto? Sì, a parte Ursula Le Guin che ci ha lasciato l'anno scorso. Sì. Però stanno svolgendo un ruolo, dimmi se interpreto correttamente, anche di creazione di utopie all'interno di un ambiente sostanzialmente distopico, come quello della fantascienza e del fantasy forse in generale negli ultimi anni. Cioè sembra che dopo essere stati abituati nel Novecento a narrazioni utopiche, si arrivi adesso a, o almeno negli ultimi 20 anni, a una predominanza di narrazioni invece distopiche. Quello di cui ci stai parlando però invece sono una serie di società del futuro ipoteticamente organizzate in un altrimenti rispetto al sistema capitalistico nel quale stiamo vivendo, e quindi svolgono anche una funzione di creazione di immaginario, di utopia, è corretto? Sì, guarda, ma ti dirò di più, non si tratta soltanto di futuro, non sono autori di fantascienza, parliamo di narrativa in senso ampio, che sì, comprende anche la fantascienza, ma ci sono narrazioni, romanzi, racconti che presentano sia il presente o anche che parlano del passato, ma raccontandolo da punti di vista non allineati alla narrazione predominante, che presentano personaggi anche a volte discutibili o contraddittori, ognuno con le sue contraddizioni. Ecco, una cosa che emerge sempre è la volontà di non nascondere le contraddizioni insite nel prospettare, nel praticare modi alternativi. Si tratta sempre di sperimentare ovviamente seguendo dei principi etici che si ritengono giusti, come l'uguaglianza di tutti, come l'aiuto reciproco, e quindi intorno a queste cose le narrazioni che emergono sono a volte utopiche, a volte distopiche, ma hanno il grande pregio di problematizzare le contraddizioni della realtà e non aggirarle semplicemente per col fine di vendere di più o di essere più accettabili dal decoro e dalla morale predominante. E poi sono tutti come dicevo, si tratta a volte di romanzi, a volte di fumetti, a volte di videogiochi, qualunque mezzo espressivo che consenta di raccontare, di esprimere un concetto non in modo astratto e teorico, ma valutando nel pratico di esperienze reali, perché poi tutti questi autori quello che producono nasce da esperienze di vita reale, da pratiche di vita reale, e infatti non soltanto in letteratura questi autori esprimono questi immaginari, lo fanno poi anche nel pratico delle loro vite. C'è chi si autoproduce, chi sceglie la via delle case editrici tradizionali, ma magari scegliendo case editrici con certi principi, come appunto Margaret stessa fa pubblicando con la AK Press questo libro, che è un editore anarchico statunitense. C'è chi, la maggior parte mettono, di questi autori mettono a disposizione le loro opere gratuitamente sui siti di riferimento, o comunque scrivono abbondantemente su fanzine, riviste autoprodotte, blog e quant'altro. Oltre a un'attività politica, alcuni più impegnati, alcuni meno, alcuni in passato, alcuni con le loro possibilità, però sono tutti quanti comunque attivi nelle comunità che hanno intorno, partecipi delle lotte che si sviluppano nei territori in cui abitano. E qui in queste interviste si parla dall'occupazione di un'autostrada per impedire la devastazione di un parco naturale in Minnesota, al blocco dei macchinari per impedire lo sfruttamento delle cave minerarie sui Monti Appalaci. Si parla di occupazioni o di terreni e costruzione di comunità agricole sostenibili e quant'altro. Quindi veramente è un libro ricchissimo di spunti, e quando ci è stata proposta l'idea di pubblicarlo, di tradurlo e pubblicarlo qua in Italia, ci è sembrato non solo interessantissimo per noi stessi, affine al progetto che abbiamo intrapreso con Contrabbandiera, ma anche estremamente importanti da immettere nel dibattito pubblico. E speriamo di renderlo appunto davvero un dibattito pubblico a partire da questo luglio. E a tal proposito, infatti, ti volevo domandare proprio quale sarà la prima occasione nel quale potremo avere in mano questo libro. Allora, con ogni probabilità, salvo ricadute dell'emergenza del virus, abbiamo in programma di partecipare a uno degli eventi più importanti dell'anno, ogni anno che si svolge in Italia, è l'AC Meeting, che quest'anno si svolgerà a Roma. Probabilmente ancora non è certo le date, ma dovrebbe svolgersi a inizio settembre. È un meeting annuale della comunità hacker italiana, e ci sembrava il luogo più appropriato per il lancio. Ci sarà anche la guida all'autodifesa digitale, che ci sarà sicuramente fuori anche quella, che proprio da quell'ambiente esce fuori. L'abbiamo raccolta proprio da suggestioni che ci sono arrivate da partecipanti a questo meeting, hack meeting. Beh, io per concludere ti chiederei soltanto allora ancora i riferimenti a Contrabbandiera, dove possiamo seguire un po' gli andamenti della casa editrice, dei progetti e dei prossimi libri. Allora, abbiamo un sito tutto nostro che trovate all'indirizzo www.contrabbandiera.it, dove trovate sia le nostre pubblicazioni e pure la nostra guida all'autoeditoria, liberamente scaricabile. L'indirizzo mail per qualsiasi cosa è ciao@contrabbandiera.it, e poi abbiamo varie pagine social per stare in contatto con i nostri ammiratori. Basta citare Contrabbandiera, sia l'orribile Facebook che su Instagram, perché ci diverte, ma insomma un po' questo. Poi noi siamo di base a Firenze, se venite a trovarci, se passate di qua, ci becchiamo volentieri all'Emerson o in Polveriera o insomma nei nostri posti preferiti, e probabilmente anche al prossimo festival di letteratura sociale che si vuole fare in autunno, come ricordiamo ogni domenica, all'interno di Poi You It. E quindi intanto Sbagliato con la base. Intanto, allora, davvero tante grazie ad Andrea Simoncini di Contrabbandiera Editrice. Contiamo di riaverti presto i nostri microfoni per le prossime pubblicazioni.